Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 15 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro e Eduradio e TV. Io sono sempre Caterina alla conduzione di questo programma che va in onda sempre su Radio Città Fujiko, lo ricordo, Teletricolore e Lepida TV. Qui con me c'è anche Antonella Cortese, buongiorno. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti. Allora Antonella, dai, dillo tu oggi. Sì, oggi tocca a me ringraziarvi per la generosità che state esprimendo attraverso le donazioni al nostro crowdfunding. Vi ricordiamo che vogliamo coprire il mese di agosto, ma anche possibilmente quello di settembre con il vostro aiuto. Quindi continuate a sostenerci e a donare sulla piattaforma www.ideaginger.it e a cercare il nostro progetto che ormai conoscete a memoria e che si chiama Eduradio TV. Grazie. Grazie, mi unisco al grazie e parto subito con le notizie. Leggo a firma di Massimo Amaniti sul Corriere della Sera, vittime dell'isolamento. E chi saranno mai queste vittime dell'isolamento? Non solo i detenuti, a quanto pare, perché si parla degli adolescenti, dei nostri ragazzi, che sono rimasti per oltre un anno e mezzo inchiodati ore e ore davanti allo schermo del computer per la didattica a distanza. Questa drastica rinuncia alla vita sociale li ha spinti sempre più a rinchiudersi nei loro buchi, nelle loro stanze, e in effetti c'è un parallelismo, Antonella, che io noto con il mondo delle carceri, perché anche degli adolescenti si parla solo se si comportano in modo spericolato o violento, oppure se manifesta alterazioni psichiche. Per il resto sono socialmente invisibili, proprio come le persone detenute. Eppure, proprio in questi giorni, El País, questo quotidiano spagnolo, ha pubblicato un articolo allarmante davvero sulle patologie psichiche degli adolescenti spagnoli che sono emerse in questo periodo. Nonostante le graduali riaperture, le maggiori libertà di movimento che dovrebbero intuitivamente migliorare il loro equilibrio mentale e la loro vita, purtroppo non è così. Eh sì, infatti, questo fenomeno è veramente sconcertante, anche perché c'è una sorta di sindrome o patologia che si chiama Hikikomori, che è appunto quella legata ai ragazzi che si ritirano dal mondo e stanno dietro a un computer. Magari ne riparleremo un'altra volta, ma intanto ti voglio chiedere, cosa è emerso da questa ricerca? Cosa ci deve veramente allarmare? Guarda, è stato il direttore dell'ospedale pediatrico di Barcellona a parlare dei frequenti tentativi di suicidio da parte di adolescenti che arrivano al loro pronto soccorso. Più di 20 casi settimanali, sono tantissimi, ben più dei 4 casi che accadevano in passato. E non si tratta solo di tentativi di suicidio molto diffusi, ma anche di gravi disturbi alimentari che colpiscono in particolare le ragazze tra i 13 e i 14 anni. È vero, perché in Italia, come anche in altri paesi del mondo, le condizioni di vita degli adolescenti sono state molto molto difficili durante la pandemia, costretti all'isolamento in casa, isolamento sociale, inchiodati ore e ore davanti a uno schermo per cercare anche di studiare, di fare la didattica a distanza, no? Sì, questa rinuncia, come dicevo, alla vita sociale ha spinto gli adolescenti a rinchiudersi nella loro stanza, quasi cercando di appropriarsi dell'isolamento per non doverlo invece poi subire. Tutto questo ha stravolto i ritmi e le loro abitudini di vita quotidiana. E anche le interazioni, gli scambi coi coetanei, che davano un'ulteriore stabilità attraverso condivisioni e coinvolgimenti affettivi, sono chiaramente venute a mancare. Con la pandemia si è insinuato nella mente dei giovani un senso di solitudine e di vuoto che ha cominciato poi a minare la fiducia in se stessi. E quindi è scesa una sorta di nebbia che ha reso tutto sfumato e anche insignificante. Senti, ci sono state sicuramente delle ricadute. E quali sono le conseguenze di queste restrizioni negli adolescenti italiani? Si cominciano a manifestare stati di ansia, stress, con somatizzazioni anche fastidiose, difficoltà di concentrazione, anche di difficoltà a studiare, disturbi del sonno poi. Internet, tra l'altro, è diventato sempre più pervasivo nelle loro giornate, determinando poi la difficoltà a regolare, a vivere le proprie emozioni. Ma quello che è più allarmante è quello che si è verificato negli ultimi mesi, cioè un aumento anche in Italia di tentativi di suicidio al pari della Spagna, come è stato segnalato dagli ospedali pediatrici italiani. Addirittura ragazze e ragazzi alle soglie dell'adolescenza ricorrono al suicidio, pensate voi, come unica via di uscita da una situazione insopportabile. È giusto parlare di queste cose, è giusto parlare con i ragazzi perché i problemi prima di tutto vanno compresi per poi affrontarli. Sì, l'argomento è complesso e insomma bisogna riflettere molto su quello che sta succedendo. Però io adesso ti chiedo di passare ad altro e di lanciarci un bel brano. Sì, restiamo sempre con musiche che parlano di libertà, con Beyoncé, Freedom, ascoltatela. Eccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Antonella, oggi di cosa ci parli? Oggi vi vorrei parlare di uno scrittore maliano che si chiama Amadou Hampa Teba ed è più attuale che mai la sua Lettera alla gioventù, che è un testo visionario che aveva scritto nel 1985 che rappresenta un po' la memoria di un intero secolo africano. Tra l'altro, Hampa Teba è comparso 30 anni fa in Costa d'Avorio all'età di 90 anni. È stato uno scrittore molto attento, filosofo, etnologo, membro del Consiglio esecutivo dell'UNESCO, dal quale lanciò il suo grido d'allarme diventato famoso, che diceva questo: un vecchio che muore è una biblioteca inesplorata che brucia. Ed è stato uno dei massimi custodi della tradizione orale, della cultura e della storia africana. Sembra una domanda banale, ma perché al giorno d'oggi abbiamo ancora bisogno di continuare a leggere Hampa Teba? Caterina, ti rispondo direttamente con le parole della figlia Rokia Touba, che dirige la fondazione intitolata al padre e lancia addirittura un concorso letterario che si chiama La mia risposta alla gioventù. Comunque lei dice: i contesti si evolvono, i periodi si evolvono, ma le piaghe, i mali sono spesso gli stessi. E questo è un po' vero. E tra l'altro, lei continua a dire, Hampa Teba ci diceva che possono cambiare i detentori del potere, ma chi ha in mano il potere non cambierà mai la propria maniera d'agire. Molte persone promuovono valori, ma la vera essenza di queste persone viene fuori quando giungono alle azioni. Questo lo ha sottolineato Rokhiatu durante questa cerimonia in cui poi sono state presenti diverse personalità, tra cui diplomatici, esponenti dell'UNESCO, e proprio per sostenere il progetto di digitalizzazione delle opere dello scrittore etnologo, appunto, che poi è suo padre. Mi sembra che la figlia, con le cose che ha detto, affronti in qualche modo un argomento cruciale, cioè la cultura africana. Eh sì, perché guarda Caterina, c'è stato un momento di espropriazione culturale in realtà e di contaminazione. Infatti, Rokhia Touba ha voluto ricordare che a causa di fattori esogeni come la colonizzazione, la lotta per le indipendenze, gli africani sono stati tagliati fuori dalla propria cultura e dalle proprie radici. Lei infatti dice: non possiamo chiedere a qualcuno di dare ciò che non ha. In questo senso, i giovani di allora non sono totalmente colpevoli di non aver pienamente colto il messaggio contenuto nella Lettera alla gioventù, perché poi, sai, guerre civili e tutto quello che succede in Africa, sembra che nessuno si sia accorto di quello che era stato già detto. In realtà, L'appello di Hampate Bah ai giovani africani era un appello a reafricanizzarsi, però senza xenofobia, andando alla scoperta della propria storia, capendo come erano fondate le società, ma sorridendo allo stesso tempo agli altri. Quindi non una società chiusa, non una società che si arrocca dietro la propria tradizione e cultura. Diciamo che poi la cosa carina che è successo è che c'è stato anche un giovane liceale franco-ivoriano, innamoratissimo dell'opera del poeta e narratore, che ha letto degli scorci, dei pezzi appunto di questo testo. E poi riprende anche la definizione, una definizione interessante, che dice che le opere di Hampate Bah sono oralità sdraiata sulla carta e fanno capire appunto quanto la cultura africana sia ricca. Dici qualcosa sulla lettera alla gioventù che lui ha scritto? Sì, allora guarda, nella sua lettera alla gioventù, Hampate Bah metteva in guardia contro le sfide del XXI secolo e di un mondo globalizzato e interconnesso. Era un po' un visionario, lui. Infatti dice: un'epoca tanto spaventosa a causa delle minacce che fa pesare sull'umanità, quanto esaltante però per le possibilità che apre nell'ambito delle conoscenze e della comunicazione fra gli uomini. Vi leggo proprio le sue parole adesso. La generazione del XXI secolo vivrà un fantastico incontro di razze e idee. A secondo di come assimilerà questo fenomeno, ne assicurerà la sopravvivenza o ne causerà la distruzione attraverso conflitti letali. In questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi nella propria torre d'avorio. Tutti gli stati, forti o deboli, ricchi o poveri, sono ora interdipendenti, anche solo economicamente o di fronte ai pericoli della guerra internazionale. Che gli piaccia o no, gli uomini vengono imbarcati sulla stessa zattera. Lasciate che si alzi un uragano e tutti saranno subito minacciati. Non è meglio cercare di capirsi e aiutarsi a vicenda prima che sia troppo tardi? E con questa domanda, io concluderei perché veramente, c'è proprio la chiave di lettura di tutto. Però prima di concludere, lanciaci il brano musicale perché seguirà allo stacchetto virtuoso. Senz'altro, ti lancio il brano cantato da Sara Diabaté proprio in occasione di questo evento. Lei ha voluto essere parte e cantare una canzone. Ascoltatela. Ritrovati a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sempre su Liberi Dentro e Euradio TV e abbiamo sempre Rosanna. Buongiorno Rosanna, ciao. Buongiorno. la nostra esperta per la spiritualità islamica che ci accompagna fin da gennaio con le nostre puntate sempre. E oggi parliamo di educazione, dopo aver parlato di dialogo, averne chiarito anche l'etimologia nella lingua. Anche sull'educazione, io ti chiedo di indagare il significato di questa parola nella cultura e anche nella spiritualità islamica. Cosa ci racconti? Beh, in arabo c'è una bellissima parola per indicare l'educazione che è tarbiyya. L'arabo, ormai lo sappiamo, è una lingua semitica, una lingua che funziona a radici. Quindi da una matrice unica si formano le parole. E la parola tarbiyya, appunto educazione, deriva da una radice che vuol dire nutrire. Vuol dire educare, ma nel senso, possiamo immaginarlo come la cura che si ha per una piantina che giorno dopo giorno si innaffia per vederla crescere. E quindi anche questo senso di far crescere che ci collega ad un concetto invece latino, alla parola da cui deriva la nostra parola italiana, autorità, che deriva da un verbo latino che appunto ha lo stesso identico significato, appunto quello di far crescere. E quindi colui che educa, ecco, l'educazione è prima di tutto il frutto di una relazione tra colui che educa e colui che viene educato, ma non in un senso gerarchico, ma in un senso di supporto alla crescita e all'evoluzione. Per quanto questo sia un termine arabo, in qualche modo, che quindi è trasversale a diverse religioni, si intreccia molto bene con quella che è una visione islamica della relazione tra le persone, che è una relazione che dovrebbe sempre essere alla pari, perché davanti al Dio siamo tutti sullo stesso piano. Ecco, allora mi allaccio direttamente a quello che hai detto sulla visione islamica dei rapporti anche fra gli altri e dell'educazione. In che modo questo concetto di educazione si lega al credo religioso per la spiritualità islamica? Ecco, sicuramente parlando dell'educazione in particolare dei bambini, anche se secondo me questo concetto è molto ampio, ecco, nella tradizione islamica, come in qualsiasi tradizione religiosa, sono i genitori o comunque chi ha la cura del bambino, della bambina, a doversi occupare dell'educazione religiosa. Ma educazione religiosa, che non dobbiamo intenderla come strettamente religiosa, nel senso di imparare a pregare, imparare le sure del Corano, ma anche educazione su quello che si chiama adab, che è un'altra parola araba che vuol dire educazione, ma educazione del comportamento. Anche perché nella tradizione islamica, come ci mostrano diverse narrazioni attribuite anche al profeta, i bambini sono esenti da qualsiasi responsabilità. La tradizione islamica ci ricorda che ai bambini non sono caricati i bambini di obblighi religiosi come lo sono gli adulti, perché chiaramente non hanno ancora sviluppata quella facoltà di poter scegliere, di poter prendere piena consapevolezza degli obblighi religiosi, ma sicuramente sul retto comportamento, che è quello che possiamo chiamare la buona educazione, anche quello fa parte del percorso di insegnamento islamico. Grazie, grazie Rosanna. È il momento di lanciare una canzone e dopo ritorniamo a bomba, sempre sull'educazione. Cosa lanciamo? Bene, lancio Yara dei Radio Derbish. insonnia dentro me. Eccoci sulle note di Radio Dervish Yara. Stiamo parlando con te, Rosanna, a proposito del concetto di educazione nella cultura e nella spiritualità islamica. C'è anche un modo laico, mi chiedo io, di intendere l'educazione? Bene, questo sicuramente, anche perché nell'Islam, diciamo, è un po' difficile nell'Islam inserire il termine laico, che noi lo pensiamo sempre pensando appunto al contesto italiano, quello cattolico, appunto il laico è quello che non è un ecclesiastico, quello che non è ufficialmente un religioso. Nell'Islam non c'è chiesa, non ci sono rappresentanti religiosi, quindi in qualche modo siamo tutti un po' laici e religiosi allo stesso tempo. Ma quello che è interessante è che proprio per questo motivo, proprio perché l'Islam possiamo dire è un sistema olistico, anche occuparsi di scienza della terra, scienza dell'agricoltura, quindi occuparsi di scienza delle lingue o qualsiasi cosa che c'è nel mondo e che chiaramente fa parte della creazione di Dio, in effetti è un modo per avvicinarsi a Dio. C'è un famoso detto attribuito al profeta che dice: cercate la conoscenza fin anche in Cina. Questo ora non si sa se l'abbia detto davvero, ma il fatto che sia stato trasmesso e che sia così diffuso nel mondo islamico significa, ecco, che la conoscenza, qualsiasi tipo di conoscenza, è in realtà considerata come un modo per conoscere meglio la creazione, creazione che è appunto manifestazione del divino. E quindi anche, diciamo, l'ingegneria, l'architettura, che potrebbero sembrare cose che non c'entrano direttamente con la creazione, come possono essere le scienze naturali, in realtà quello non è altro che utilizzare il proprio ingegno, la propria forza, diciamo, creativa, e quindi in qualche modo dare un contributo anche al benessere della società, che fa tutto parte del sistema religioso. L'Islam non fa questa netta differenza tra lo spazio del religioso e quello del non religioso, diciamo. E ogni tanto a me piace chiedere ai miei ospiti di ripescare qualche memoria dal proprio vissuto. E allora ti chiedo se tu hai qualche aneddoto sulla tua, per esempio, educazione religiosa fin dall'infanzia. Come ti hanno cresciuto i tuoi genitori? Io sono cresciuta in una famiglia di persone appunto cristiane, non cattoliche, appartenenti ad un gruppo cristiano, e se quello che io diciamo conservo è il contatto con il testo sacro. Cioè io sin da bambina avevo imparato che c'era un testo sacro, che in quel caso era la Bibbia ed erano i Vangeli, diverso dagli altri. È un testo non tanto facile da capire, che mia madre in particolare cercava di semplificare, insomma, per me che ero bambina, e sono stata educata a farmi delle domande altre, no? A pensare un po' al di là della materia. E questo penso che al di là della religione sia un valore importante da trasmettere, al di là se si vuole o meno educare i propri figli ad una religione in particolare. Grazie Rosanna per questo approfondimento anche su di te. Ora una canzone la lancio io con Battiato Testamento e ci rivediamo la prossima volta. Ciao. Lascio Ciao. Agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami. E mi piaceva della mia vita mortale, anche l'odore che davano gli asparagi all'urina. We never died, we were never born. E anche il nostro giovedì si conclude questa volta con il volto di Rosanna Serignano, che con noi già dalle puntate anno, poi sempre più presente da gennaio di quest'anno per la spiritualità e la cultura islamica. Noi ci salutiamo, ci rivediamo tra poco con le rubriche di Eduradio e TV. Oggi parliamo di, avremo la pillola di Jailhouse Rock, quindi con tanta musica e tanto approfondimento. E ovviamente scriveteci, redazione liberidentro, @gmail.com per la mail, oppure l'indirizzo postale, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40, 136 Bologna. Buona giornata a tutte e tutti e noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani su Liberi Dentro. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.